sei. Io vado contro vento e so che non ti aiuterei. E prendi un po' di pane, però tu m'hai fatto male. E prendi anche la frutta, non fa niente, casi brutti. Ma con musica, musica, indietro ti sarò. Con la musica, musica, posso dirti anche no. Bella musica, musica, quanto pianto e non lo so. Ma la musica, musica, è tutta quel che ho. Ma una sedia elettorale e con i piedi gonfi come hai voglia di votare. E poi mi levi luce perché sai che sono capace. E poi mi levi vino perché si non figlie buchini. Ma con musica, musica, sempre dietro ti sarò. Con la musica, musica, posso dirti anche no. È la musica, musica, quanto pianta non lo so. Ma la musica, musica, è tutta quella. Non lo so, ma la musica, musica, è tutta quel che ho.